Nella settimana di Ababo Art Week succederanno tante cose, come ogni anno cerchiamo appunto di contribuire a questo straordinario evento bolognese con quello che noi facciamo quotidianamente in Accademia, quindi lavorare con gli studenti. Il nostro lavoro è quello di investire sul futuro ed è la cosa alla quale teniamo moltissimo, perché gli artisti che cerchiamo di formare saranno quelli che domani e dopodomani saranno i protagonisti della scena artistica, non solo bolognese ma anche internazionale. Quindi l'idea è proprio non solo organizzare degli eventi espositivi, quindi ci trasformeremo per una settimana in uno spazio espositivo che racconta quello che facciamo nei laboratori, ma ovviamente l'opportunità è anche quella di riflettere su quello che è lo stato dell'arte oggi e soprattutto sulla formazione artistica. Ecco perché inizieremo con una serie di incontri, avremo ovviamente degli appuntamenti con artisti, diciamo nella seconda metà della settimana, e la cosa che alla quale teniamo molto non solo è la presenza in arte fiera con il nostro stand e quindi presentando alcuni giovani artisti selezionati, ma anche la collaborazione che abbiamo con altre istituzioni bolognesi, perché ovviamente nella Ababo Art Week c'è anche una parte off che è sempre importante, perché vuol dire dialogare, confrontarci con chi insieme a noi in questa settimana parla d'arte e riflette sul suo sviluppo futuro.